30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. You know, in today's regulatory environment, it's virtually impossible. Nel contesto regolamentativo in cui operano oggi i mercati finanziari è virtualmente impossibile violare le regole. Questa è una cosa che il pubblico generalista fatica a capire. Leggi i giornali, apprendi che qualcuno, come dire, ha violato le regole e allora si fa presto a dire, beh, certo, d'altra parte lo hanno sempre fatto. Eppure è del tutto impossibile che una tua violazione delle leggi possa sfuggire all'attenzione del sistema di controllo, tantomeno se è portata avanti per un periodo di tempo prolungato. Così parlò Bernard Madoff, per le nostre orecchie, per il nostro accento, uomo d'affari, ex presidente del Nasdaq, oggi protagonista di una delle più grandi truffe finanziarie dei nostri tempi. È accusato di avere rubato 50 miliardi di dollari e di averlo fatto costruendo uno schema fittizio che si alimentava da solo, un sistema a piramide, un sistema basato sulla fiducia, come gran parte degli scandali finanziari. Allora ancora buonasera, benvenuti a 30 minuti in cronaca, il nostro spazio del fine settimana dedicato ad approfondire una delle notizie che corrono veloci nel nostro panorama informativo. Io sono Gigi Donelli e con me oggi c'è Claudio Gatti, giornalista investigativo che indaga appunto i grandi reati finanziari. Buonasera. Buonasera. Abbiamo sentito questo primo estratto della voce di Bernard Madoff ed è stato raccolto il 20 ottobre del 2007 nel corso di una tavola rotonda in cui lui parlava e spiegava appunto che le autorità di controllo del mercato rendono praticamente impossibili i comportamenti illeciti. Questo era il 20 ottobre 2007. L'11 dicembre 2008 invece tutte le televisioni, soprattutto quelle americane, aprivano sull'arresto, arrestato Bernard Madoff nel suo appartamento di New York. Allora Claudio Gatti, come è possibile? Cos'è accaduto nel corso di questi 14 mesi che hanno trasformato un uomo e la sua immagine pubblica? Innanzitutto occorre dire che sono stati 14 mesi che hanno trasformato il mondo finanziario, che è una cosa importante per spiegare la vicenda di Madoff. Il 20 ottobre 2007, quando Madoff fece quella registrazione, l'indice Dow Jones era oltre i 13.000 punti. Oggi si muove attorno agli 8.000. Nell'ottobre del 2007 soffiava già un vento di crisi, ma non ci si aspettava la bufera che poi è avvenuta. Bernard Madoff era ancora Bernie, l'investitore, il finanziere che garantiva rendimenti sicuri anche nei momenti difficili. In quest'ultimo anno e mezzo è successo di tutto, è scoppiato il panico. A marzo del 2008 è praticamente scomparsa Bear Stearns, una delle cinque grandi colossi di Wall Street, mangiata da JP Morgan per 2 lire. A partire dall'estate è esplosa la crisi più drammatica e c'è stata quella che era una corsa alla liquidità è diventato un arrembaggio e questo ha portato al crollo del castello di carta che Madoff aveva creato. Perché? Perché come tutti queste truffe che in America chiamano schema Ponzi e che in pratica è una catena di Sant'Antonio, è chiaro che se gli investitori cominciano a chiedere di avere i soldi indietro, i soldi non ci sono per tutti quanti, perché il tipico schema Ponzi è: io ricevo soldi da te, con i tuoi soldi pago chi mi ha dato i suoi soldi prima di te. Se tutti chiedono i soldi non ci sono. E quindi con la crisi, con la domanda di liquidità, si è trovato con miliardi di dollari di richieste di remissione, cioè di restituzione, disinvestimento, e si è stato costretto ad ammettere che era tutta una grande truffa. Insomma, il re si è scoperto nudo, il tempo è cambiato, il contesto finanziario si è trasformato e Madoff ha appunto, come ci dicevi, semplicemente un giorno ammesso, perché poi c'è anche questo elemento quasi melodrammatico dell'incontro, della resa incondizionata, la comunicazione ai figli. Ci torneremo. Madoff, 70 anni, ha tutta l'aria di un uomo simpatico, i suoi modi sono gentili, anche alla mano, un understatement newyorkese, per cui nonostante la fortuna, insomma, ha un approccio molto disponibile. Bernie, come appunto lo chiamavano non solamente i suoi amici, era una vera e propria macchina da soldi. Allora, chi erano i suoi clienti? C'erano varie categorie di clienti, e questo spiega anche per le dimensioni dello scandalo. C'erano clienti diretti, cioè clienti di Bernie, che erano persone che appartenevano ai vari giri social mondani, anche religiosi, a cui apparteneva Bernard Madoff. Quindi i giri dei i club in Florida o in Long Island, i giri della comunità ortodossa ebraica newyorkese, e questa era, diciamo, la prima categoria, i suoi investitori diretti, i suoi clienti diretti. Dopodiché il grande castello si è in realtà costruito grazie a quelli che sono chiamati i cosiddetti feeder fund, cioè i fondi di investimento che davano in gestione i propri soldi a Madoff. Si parla di fondi hedge molto grandi, che raccoglievano miliardi di dollari e che li passavano in gestione a Madoff. Questo creava un distacco tra il truffatore e gli investitori, che si sentivano, diciamo, più garantiti dal fatto che dei fondi riconosciuti, che esistevano da anni, davano a Madoff i propri soldi. Anzi, spesso gli investitori non sapevano neppure che i soldi venivano gestiti da Madoff. Loro li davano ai fondi e i fondi li passavano a Madoff. In questo modo lui la raccolta è cresciuta tantissimo. I'm absolutely shocked and appalled. I have no idea whether I have zero or all or anything in between. Insomma, non ho nessuna idea se, dice questa signora che si chiama Joy Schreiber, dice: non ho idea se in questo momento ho zero, ho tutto o qualsiasi cosa nel mezzo. Questo è un elemento anche classico di queste vicende. C'è la fase dell'incertezza assoluta. Questo almeno per alcuni, non per tutti, e tu hai fatto un'inchiesta proprio in questo senso. C'è chi invece ha degli strumenti più solidi per rispondere alle crisi, in particolare le banche. Ma rimaniamo un attimo, diciamo, ai clienti normali. C'è anche tra, appunto, la clientela, di solito famiglie facoltose, spesso ritirate in Florida per godere la pensione, che dice: ma non godevamo affatto di profitti straordinari. Ecco, vorrei un po' di chiarezza su questo punto, perché spesso si dice: beh, è una questione, diciamo, una storia tra ricchi, avevano profitti formidabili e quindi era evidente che dovesse finire male. Allora, innanzitutto non è necessariamente una storia di soli ricchi, nel senso, erano certamente anche clienti facoltosi che frequentavano i club di Madoff, ma c'era anche l'investitore comune. Una delle le storie che ha colpito di più i newyorkesi è stata raccontata appunto dal New York Times di un signore ormai pensionato che aveva messo da parte tutti i propri risparmi e li aveva dati da gestire a una persona che non era... Era proprio veramente l'aspetto più interessante e geniale di Madoff, che dimostra pure che non si tratta di Ponzi. Il signore italo-americano che ha inventato lo schema era un emigrato italiano che non sapeva nulla. Questo signore era il presidente del Nasdaq, quindi conosceva perfettamente il mondo della finanza e soprattutto la psicologia degli investitori. Era proprio perché lui non garantiva dei rendimenti straordinari che la catena è andata avanti a lungo. Lui garantiva rendimenti costanti. Se il mercato perdeva il 5%, lui magari guadagnava il 5%, ma non erano dei guadagni così spropositati da far scattare campanelli d'allarme. Bernard Madoff conosceva perfettamente i meccanismi interni, conosceva la psicologia, appunto, dei suoi clienti. Prima dell'interruzione, di sentire come vanno le cose sulle strade italiane, volevo chiederti: e le banche? Come hanno reagito invece le banche? Beh, E le reazioni delle banche sono state molto diverse. E innanzitutto è importante dire che le banche in questa vicenda hanno avuto un ruolo non centrale, ma neppure insignificante. Perché le banche anche si sono fatte prendere dall'ingordigia, che però in un investitore si può accettare. L'investitore spesso si fa prendere da un'ingordigia comunque limitata. Come ho detto, lui garantiva rendimenti costanti, non straordinari. Erano straordinari se si paragonavano all'andamento del mercato, però ragionevoli. Le banche è diverso, perché le banche hanno cominciato a finanziare anche emettendo dei prodotti derivati sulla base di questi fondi di Madoff con il proprio nome e i propri soldi. Ma la differenza tra l'investitore e anche il gestore dei fondi e una banca delle dimensioni delle grandi banche internazionali che sono state coinvolte nello scandalo è che la banca c'ha una capacità di fare la cosiddetta due diligence, di studiare, di analizzare il prodotto, di studiarne la storia, di vedere se esiste la trasparenza dovuta, vedere se i soldi sono depositati in una banca depositaria separata dalla i conti del gestore. Tutto questo le banche chiaramente non l'hanno fatto. Bene, torniamo tra un momento a parlare del ruolo delle banche, di qualche banca in particolare. Proprio in questi giorni avrete letto, avrete sentito che per esempio il primo istituto di credito spagnolo ha preso una decisione precisa rispetto alla vicenda Madoff, ha sostanzialmente deciso di coprire tutte le perdite dei suoi clienti. Naturalmente la clientela ringrazia, la borsa risponde e in particolare il Santander pochi giorni fa ha fatto un balzo di oltre 10 punti in borsa. 30 minuti in cronaca. It is being called the biggest fraud in Wall Street history. Federal investigators say famed Wall Street money manager Bernard Madoff ran a scheme that cheated investors out of Bernard Madoff e il suo schema, il suo scandalo, 50 miliardi che spariscono e naturalmente il mondo finanziario e non solo che si interroga. Noi dunque continuiamo qui oggi a 30 minuti in cronaca con Claudio Gatti che ha appena realizzato un'inchiesta pubblicata sul Sole 24 Ore e in contemporanea sul New York Times, un'inchiesta a quattro mani firmata con la collega Diana Enriquez. Il titolo è Madoff, JP Morgan si salva, i clienti no. Il caso della banca JP Morgan e del ruolo che ha avuto in questa vicenda è decisamente particolare. Nel senso che molte banche, come abbiamo detto, si sono trovate con un'esposizione dovuta alla caduta del castello di carte di Madoff e l'hanno dichiarata. JP Morgan non aveva mai dichiarato nulla, anzi quando noi abbiamo chiesto qual era la loro esposizione la risposta è stata vicina allo zero. La cosa interessante è che era vero, ma soltanto perché l'esposizione che c'era stata fino a 2 mesi e mezzo prima dell'arresto di Madoff non era rimasta soltanto perché la banca era uscita, aveva disinvestito con una decisione improvvisa e non spiegata ai suoi stessi investitori. In pratica la banca aveva costruito dei certificati derivati sui fondi di Madoff, aveva investito i propri soldi su quei fondi per coprirsi dal rischio di non poter mantenere gli stessi rendimenti, ma 2 mesi e mezzo prima dell'arresto improvvisamente hanno ritirato circa 230 milioni di dollari che avevano su quei fondi. Adesso gli investitori sono rimasti con queste note, molte delle quali non valgono più nulla, cioè hanno perso tutto qualsiasi il proprio valore. Capitale. Ecco, perché 2 mesi e mezzo prima avranno dovuto dare delle spiegazioni? Ce le hanno date a noi quando gliel'abbiamo chiesto e la risposta è stata: ma stavamo rivedendo un po' tutto la strategia di investimento nei fondi hedge, però in realtà ci hanno detto che i loro esperti di due diligence a settembre del 2008 avevano concluso che avevano capito che c'erano dei problemi con i fondi e con Madoff e che soprattutto c'era una mancanza di trasparenza e a quel punto hanno deciso di uscire. La cosa interessante è che se si va a analizzare la performance dei fondi gestiti da Madoff, la mancanza di trasparenza era un fattore che sin dall'inizio era presente e la stranezza dei rendimenti è anche un fattore che da anni si verificava e quindi non si spiegava bene perché proprio a non settembre... è un elemento di novità. Ecco, questa preoccupazione è stata trasferita ai clienti? Questo è il punto. Ai clienti non è stato detto nulla, per cui i clienti hanno continuato a pagare la loro commissione sulla gestione dei fondi come se i soldi fossero ancora nei fondi gestiti da Madoff. E quando Madoff è stato arrestato e si è scoperto che in realtà le quote di quei fondi non valgono più nulla, gli investitori che non avevano un contratto particolare che garantiva il proprio investimento, perché alcuni avevano tali contratti, quelli che non lo avevano adesso hanno scoperto dal nostro articolo, perché JP Morgan non aveva mai comunicato nulla, nemmeno in questi ultimi due mesi, che quelle note, quei certificati probabilmente non hanno valore. Bene. Dovreste riconoscerla, almeno se avete più di 25 anni, Barbara Ann, titolo di un singolo del 61 dei Regents, mi spiegano i miei colleghi esperti di musica, che noi in realtà associamo ai Beach Boys, che la resero famosa nel 65. Loro vengono citati perché questo è il clima in cui, diciamo, cresce e si forma la figura di Bernard Madoff, che è nato nell'aprile del 38 in una famiglia ebrea di New York, sposato con due figlie, che proprio nei primi anni 60, prima di terminare gli studi di diritto, si racconta, con $5,000 raccolti facendo il bagnino, quindi su una spiaggia, costruisce le basi del suo sistema. Come ci spiegava poco fa Claudio Gatti, le banche arrivano a, diciamo, ad annusare il pericolo in tempi molto tardivi. Eppure la stessa SEC aveva fatto almeno due indagini solamente negli ultimi 7 anni sul signor Madoff. Sul ruolo della SEC, secondo me, ancora sono tante cose che non sono state chiarite, e credo che soprattutto la nuova amministrazione di Barack Obama andrà ad approfondire e analizzare. Il sospetto di molti è che la SEC non solo abbia chiuso uno, anzi due occhi, ma che sia fatta illudere dalla personalità e anche dal passato legittimo di finanziere, di presidente del Nasdaq, di Madoff. In questa vicenda, se bisogna puntare il dito contro qualcuno e guardare le responsabilità, di sicuro la SEC è altamente responsabile, perché non è solo che la SEC ha indagato due volte, ma è che entrambe le volte ha indagato perché un altro finanziere, un concorrente di Madoff, aveva segnalato alla SEC che c'erano delle incongruenze inspiegabili. Aveva addirittura usato le parole che ora conosciamo tutti, schema Ponzi, quindi aveva detto esattamente che cosa stava facendo questa persona. Li aveva indirizzati esattamente dove avrebbero dovuto andare a vedere. Questo accade nel 2002 e nel 2005. Sì, accade credo nel 2000 e poi di nuovo nel 2005, comunque ripetutamente, perché questo signore diventa quasi ossessivo su questa cosa, perché non riesce a capire come mai gli altri non vedano, e soprattutto le autorità di vigilanza, quello che lui vedeva chiaramente, cioè che era impossibile sostenere quei ritmi e quelle performance se non con una truffa di genere catena di Sant'Antonio. Eppure ripetutamente la SEC va a guardare e sostiene che non c'è nulla di anomalo, nulla che non funziona, gli fanno una multa, ma piccole cose. Tra l'altro, un'altra cosa che spesso non viene detta è che Madoff era già diventato famoso come personaggio, diciamo, controverso negli anni 90, quando si era inventato una formuletta che non ha nulla a che vedere con l'attuale vicenda, bensì con il suo ruolo di proprietario e gestore di una grande casa di brokeraggio. Lui aveva trovato un modo di garantire business alla sua casa di brokeraggio, che era quello di pagare dei retropagamenti ai trader che andavano a fare i loro scambi con la sua casa di brokeraggio. Cioè, il trader che aveva da un cliente l'ordine di comprare o vendere, se andava a fare l'operazione con la casa di brokeraggio di Madoff, veniva pagato qualche centesimo a trade, che era chiaramente un conflitto di interesse molto grosso, perché il costo di quello scambio al cliente era sempre leggermente più alto di quanto non si poteva ottenere se invece il trader fosse andato sul mercato e aveva cercato il prezzo migliore. Questa cosa portò addirittura delle udienze in Parlamento, in Congresso in America, e Madoff fu sentito, accusato addirittura dal New York Stock Exchange, dallo stesso Grasso che è stato il presidente fino a qualche anno fa, come una persona che di fatto aveva un enorme conflitto di interesse, quasi pagasse delle tangenti ai trader che facevano business con la sua casa di brokeraggio. Quindi il nome di Bernard Madoff già negli anni 90 era stato associato a una questione di dubbia natura. Insomma, se c'è una cosa che, come ci sta spiegando Claudio Gatti, non ha posto limite all'indagine, era la conoscenza di alcuni fatti, erano dei dubbi. Ancora una volta c'è, insomma, da interrogarsi su come poi si possa arrivare, nonostante tutte, alle conseguenze che poi sentiamo anche in queste parole. How did this happen? Well, what you really had here is the watchdog agencies asleep at the wheel. Già, come può accadere, chiede la collega americana, a quello che oggi è l'avvocato che rappresenta centinaia di persone che cercano di riavere una parte o quella parte possibile dei propri soldi, come può accadere negli Stati Uniti, come è potuto accadere in Italia. Sembra quasi che in questi ultimi anni, pure non privi di casi, direi negli Stati Uniti, da Enron a Madoff, non sia cambiato nulla? Beh, fino diciamo al 4 novembre 2008, quando è stato eletto Barack Obama, di sicuro non è cambiato nulla. L'elezione di Obama, che in buona parte è anche dovuta alla crisi finanziaria, al crollo dei mercati, ha chiaramente cambiato il clima politico. In realtà tutti questi scandali, da Enron a Madoff, passando per la crisi dei subprime, hanno una, diciamo, motivazione comune alla radice, e cioè il clima di deregulation che a partire da fine anni 80, anzi dagli anni 80 di Reagan, aveva dominato il mondo della politica e della finanza. In questo clima le autorità di vigilanza hanno perso mordente, sono state più deboli, sono stati indeboliti dai politici, ci sono state delle decisioni ben precise da parte dei politici di indebolire le autorità di controllo e ridurre i controlli. Io ringrazio molto Claudio Gatti di essere stato con noi questa sera. Ricordo, caso Madoff, JP Morgan si salva, i clienti no. Questa è l'ultima parte dell'inchiesta che potete ritrovare su ilsole24ore.com. Direi di chiudere con una citazione. Ho dato agli abitanti di Boston il migliore spettacolo che sia mai stato visto sul territorio dai tempi dello sbarco dei padri pellegrini. Valeva ben 15 milioni di verdoni il vedermi mettere su tutta questa baracca. Così parlò Charles Ponzi, che abbiamo spesso citato. Accadeva naturalmente una settantina d'anni fa, forse valeva 15 milioni di verdoni, ma non erano i suoi. Allora, come oggi, c'è appunto chi adesso si lecca le ferite. Siamo arrivati in conclusione, non mi resta che augurarvi un ottimo fine settimana. Al prossimo appuntamento con 30 minuti in cronaca è per sabato prossimo.